sia corrier di pregio, Grifore il prode, niente qui sesso spoglie. E Dio qui sopprigio, impossente gli aver. Ma passa lo soglio che ponno mai contro il voler dei geni, contro ciò che prescrisse empio destino. Che cielo, che destino!